Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, salve a tutti, saluto temporale e generico a quelle 4 o 5 persone che hanno ascoltato il mio vecchio podcast e ascolteranno anche questo. Facciamo oggi un approfondimento perché oggi è stata la giornata delle grandi soddisfazioni, perché a giorni di distanza si è parlato in maniera molto molto critica della puntata 8x03 del Trono di Spade e ho avuto la mia grande soddisfazione di avere tutte le mie, diciamo, speculazioni e tutte le mie spiegazioni riprese, non che l'abbiano chiesta a me, ma il buon senso detta che i critici di tutto il mondo abbiano massacrato la puntata per ovvi motivi, cioè principalmente per pessima scrittura e per questa predominante, diciamo, questo predominante utilizzo del fanservice, che è questo meccanismo che dà al fan queste piccole soddisfazioni inspiegabili, irrisorie, irreali, se di realtà possiamo parlare di una serie fantasy, andando poi a inficiare negativamente sulla trama, no? E sono uscite tutte le varie spiegazioni. Addirittura oggi vi parlerò di un paio di articoli perché io nella puntata scorsa, che doveva essere la prima, sola e unica. Ciao Mark, ciao Luca, ciao Daniele. Cito voi perché siete la mia fonte di ispirazione, le mie tre muse, no? Vorrei vedere chi sarà vestito da Tersicore, la dea della musica. Sarebbe una cosa raccapricciante, ho immaginato col tutù bianco. Non dormirò stanotte. Però comunque le cose che ho detto riguardano sia l'aspetto tecnico, cinematografico, sia proprio l'aspetto anche, diciamo, storico, perché comunque bisogna conciliare un po' entrambe le cose, ma anche l'aspetto proprio qualitativo generale del prodotto. E sull'aspetto qualitativo iniziamo con una roba che io ho fatto una piccola lista e anche ho fatto una lista di, tra virgolette, predizioni, fra virgolette, paure e pensieri su ciò che accadrà nel prosieguo della serie, perché giunti a questo punto, diciamo che cambia lo scenario totalmente e anche l'antagonista principale, che era qualcosa di sovrannaturale, di divino, perde completamente importanza, sebbene, secondo me, ci sia un equivoco enorme che discuteremo andando più avanti. Cominciamo col parlare di questo equivoco tecnico. Allora, io do per scontato che tutti voi siate legalmente responsabili, delle persone evolute e rispettose della legge, abbiate visto la puntata su Sky. Nessuno di voi, sono certo, matematicamente certo, ha visto la puntata in streaming illegalmente. Io sicuramente l'ho vista legalissimamente su Sky, pagando, fornisco anche con commenti privati le mie ricevute. Sì, però c'è gente, mi ha detto, io, di sicuro non sono io, che ha visto la puntata in maniera pirata e mi ha detto che la puntata era estremamente buia ai limiti del non comprensibile. E già la battaglia di sé era poco comprensibile, quindi questa critica io non l'ho neanche nominata per il semplice motivo. Ho detto parecchie volte non si capisce niente, è confusionaria, non si capisce niente, è confusionaria. Andate a risentire il podcast, quelle due persone che l'hanno sentito, forse solo io l'ho sentito tutto, ma era confusionaria e anche molto scura. Parliamo proprio di qualità dell'immagine. Esce un articolo con i produttori della serie che dicono: non è l'immagine che è scura, siete voi che dovete regolare meglio i vostri televisori. E qui, no? Io provo un senso di pena, no? Come quando per le console della generazione precedente sentivi dire, visto che non andavano oltre i 30 frame al secondo: non andiamo a 60 frame perché i 30 frame sono più cinematografici, capito? Cioè, ti vogliono far passare un deficit di prestazioni hardware per una scelta stilistica, no? E io mi immagino, no, giocare a un multiplayer a 30 frame, però è molto cinematografico, capito? Sono quelle cose indifendibili, sono quelle cose che vengono dette, non lo so. Io sinceramente, se fossi la persona, no, delegata magari dai vertici della società di andare in pubblico e dire una cosa del genere, cambierei lavoro, perché comunque fai una figura. E chi ti assume dopo? Sei l'idiota del villaggio e chiaramente devi pregare Dio che quella società non fallisca mai, perché ah, guardate ti indicano per strada, quello è il coglione dei 30 frame al secondo, cioè. E insomma, hanno dato questa spiegazione assolutamente folle, piuttosto che ammettere che la qualità dell'immagine è stata scarsissima. Il perché sinceramente non lo so, perché a livello di risparmio sinceramente cambiare la saturazione non è costoso, o cambiare o regolare meglio l'immagine non è costoso. Evidentemente o è stato fatto appunto per mascherare un po' la pochezza stilistica delle scene, perché una cosa di cui voglio parlarvi è, quando vi ho detto si capisce poco, c'è anche da sottolineare la pessima coreografia della lotta, di cui parleremo fra poco, però non l'ho capito proprio, o è un errore o una scelta stilistica non azzeccata, però dire la colpa è dei televisori, cioè, per cortesia, cioè, come se uscisse un gioco tipo Batman, l'ultimo Arkham, l'ultimo capitolo che girava a 3 frame, invece di dire, guarda, su PC è codificato da rane senzienti senza arti, no, la colpa è vostra, non avete il PC da 6.000 euro, no, perché anche con due erano 1080 o 980, ricordo, il gioco girava a 3 frame, perché era fatto male, cioè, punto, di è fatto male, infatti venne ritirato da Steam. Ho fatto un parallelismo ludico per dire che certe cose sono colpa della produzione, non è colpa dell'utente finale, e dire è colpa dei vostri televisori verrebbe proprio da prendervi a schiaffi col copione inesistente della trama schifosa che avete fatto ai produttori e agli sceneggiatori del Trono di Spade. Allora, parlando appunto di coreografia, non riuscirò mai a dirlo, coreografia di lotta, perché è anche brutta la battaglia? Vi ho spiegato dei tagli frequenti e continui per dare quel senso di rapidità, di ansia, di incalzante battaglia, incalzante azione, no? È un meccanismo che vi ho spiegato per quei due che hanno sentito il podcast. E se voi guardate le coreografie della lotta, è gente che dà spadate random. Io l'ho detto, cioè John dà spadate random in mezzo a un mucchio di gente che per qualche motivo non lo attacca. Jorah dà spadate random, tutti danno spadate random, non c'è una coreografia di battaglia, è gente che dà spadate random, con le comparse che vanno per terra, gli altri sono fatti in computer grafica, vengono fatti cadere, bla bla bla, cioè, è una coreografia brutta, cioè non è un bel combattimento. Io vi citai Il Signore degli Anelli perché a livello di tattica militare era, diciamo, detto da molti che quella battaglia era plausibile, per quanto fosse plausibile una battaglia con entità diciamo non umane, era plausibile perché la cavalleria, ad esempio, di Rohan, quella pesante va al centro, quella leggera va ai fianchi, è la stessa cosa di cui diremo dei Dothraki dopo, perché c'è un articolo interessante che vi linkerò, però vabbè, aveva senso. Poi chiaramente c'è una cosa brutta della coreografia del Signore degli Anelli, che è l'arcieria di Legolas. Io, anni fa, quando uscì la prima stagione di Arrow, ci fu un allenatore di Hollywood, appunto, che disse che lui allenava nel combattimento corpo a corpo e nell'uso delle armi bianche gli attori di Hollywood, e dice che la cosa che lui mostrava come esempio di cosa non fare con l'arco è proprio Orlando Bloom con Legolas, perché al di là del falso storico della faretra, che purtroppo Hollywood questa cosa non se la toglierà mai, la faretra sulla schiena, ragazzi, ve lo ripeto, ve l'ho detto tante volte a voce agli amici, è un falso storico, perché non esisteva neanche la faretra. Gli arcieri asiatici avevano 3 o 4 frecce tra le dita della mano sinistra, la stessa che brandiva l'arco, una volta che scoccavano, allungavano il braccio, prendevano l'altra freccia dall'altra mano e incoccavano subito l'altra. È molto più rapido. La faretra storica viene portata alla cintura, viene portata sulla coscia, e perché comunque l'arcieria moderna è un'arcieria statica, l'arcieria di guerra è un'arcieria dinamica. L'arciere, una volta che ha tirato la freccia, viene visto, deve spostarsi in continuazione. L'arciere era un ruolo dinamico, no? E quindi l'arcieria con la faretra è un falso storico. Normalmente viene usato un panno che racchiudeva le frecce, no? Detto questo, anche, cioè, nel Trono di Spade, ripeto, vediamo qualche piccola inquadratura così a caso, vediamo, non c'è l'efficacia né degli arcieri, né delle catapulte, né di niente, e questo è uno degli aspetti che viene anche, diciamo, criticato dalle persone di cui vi parlerò fra un pochino, no? E loro non hanno fatto, non è, cioè, sai, possiamo criticare, parlo dei coreografi e degli sceneggiatori di Trono di Spade, cioè, sai, abbiamo fatto come, appunto, l'esempio di Legolas, un cattivo uso del mezzo, dell'arcieria, del combattimento ad arma bianca. No, semplicemente hai fatto scene che da un lato posso giustificare dicendo ma non è una vera battaglia, è una lotta per la sopravvivenza con gente non preparata, E lì posso comprendere, ma che i combattenti tipo Jaime, tipo Brienne, tipo Jon, tipo Jorah combattano in maniera abbastanza randomica, le coreografie proprio, gli scambi di colpi nella battaglia non ci sono. E non è perché gli altri sono zombie, perché nelle precedenti puntate addirittura vengono messi dei link a screenshot di battaglie precedenti, quando c'era forse ancora la storia di Martin da utilizzare, i combattimenti erano molto migliori. Quindi questo è già un aspetto abbastanza negativo. Detto questo, abbiamo esaurito il discorso delle scene molto buie e poco comprensibili. Un'altra cosa di cui parlare è il fatto che tante persone, io ho cercato volutamente commenti su, perché i miei amici erano un po' dubbiosi, tanta gente sia su Twitter, su Facebook, eccetera, si chiedeva chi è sopravvissuto, perché i combattimenti sono stati e le scene così confusionarie, che alla fine riesce anche a pensare, ma questo, tipo, il drago è vivo? Il tizio è vivo, quello è successo, dove sta quello, è sopravvissuto, quello è ferito, quello è morto. E questo, secondo me, quando tanta gente, no, non riesce a comprendere quello che hai fatto, evidentemente, invece di dire che le TV sono calibrate male, devi farti un attimino un esame di coscienza e capire che evidentemente hai fatto un prodotto brutto. Perché se non è leggibile, se non è fruibile, se non è comprensibile, evidentemente o siamo tutti scemi o non l'hanno capito nemmeno loro, gli sceneggiatori, quello che è successo. Poi, se magari c'era più materiale che è stato tagliato in montaggio per rientrare nei famosi minuti, che erano 80 minuti della puntata, questo non lo sapremo mai. Però il risultato è penoso. Tornando appunto al discorso, diciamo, di quello che io avevo anticipato, cioè che non si capiva nulla e anche ci sono dei concetti aberranti che sono stati espressi, ho letto un articolo molto interessante, no? Un'intervista, metterò un link da qualche parte. C'è un giornalista che ha chiamato un professore di affari internazionali dell'Università di Pittsburgh e un veterano dell'Afghanistan, un veterano australiano dell'Afghanistan, e gli ha chiesto, questi sono due esperti di guerra e politica e combattimenti moderni, eccetera, e poi c'è stato anche in un altro articolo un professore di storia medievale, insomma tutte e tre le persone, pur non conoscendosi, erano concordi sul massacrare tecnicamente la battaglia, e previa questa considerazione, cioè che l'aspetto televisivo, l'aspetto dell'intrattenimento è chiaramente preponderante rispetto al realismo, ma nessuno pretende realismo. Nel Signore degli Anelli c'erano ad esempio gli olifanti, eccetera, la scena assurda di Legolas che fa Tarzan non è realistica. Però c'è dietro un ragionamento, c'è dietro una tattica di chi va a combattere chi. Cioè questo bersaglio è adatto a questo nostro alleato che può fare questo tipo di attacco, sebbene nel libro sta roba non ci fosse, cioè non era assolutamente così, però vabbè. E insomma, loro muovevano una critica su tantissimi punti, anche molto tecnici. Io ve li riassumo in maniera molto semplice, perché altrimenti andremo nel discorso tecnico-bellico, che neanche io conosco bene, però alcuni concetti sono universali, no? La prima cosa che dicevano è quello che vi ho detto io, perché i Dothraki crepano nei primi 5 secondi come carne da macello. Io ve l'ho spiegato il motivo, perché la logica televisiva impone che fare una scena con 100.000 cavalli e 100.000 spade fiammeggianti, che poi hanno acceso loro, cioè l'hanno accese loro, il problema se lo sono creati da soli, costa, e quindi li hanno fatti crepare subito i Dothraki, anche perché i Dothraki erano gli unici vestiti diversi, tu con quelli dentro Winterfell erano tutti vestiti medievali, generici, i Dothraki erano vestiti diversi, fai crepare quelli vestiti diversi e le comparse sono sempre le stesse. Smart. E praticamente spiegavano che la cavalleria leggera, come dicevo prima, la cavalleria leggera non è addetta ad attaccare de faccia, cioè la cavalleria leggera non carica mai frontalmente. Chi carica frontalmente sono i cavalieri pesanti, con i cavalli da guerra con armatura pesante, loro con le lance caricano e spaccano le file nemiche perché passano quasi indenni. I Dothraki hanno una cavalleria leggera che è adatta alle battaglie, diciamo, di fiancheggiamento. E infatti nelle battaglie precedenti della serie, anche, ripeto, sempre probabilmente scritte sul libro da Martin, i Dothraki fanno queste tattiche, fanno delle tattiche a tenaglia, fanno degli attacchi laterali, cercano di girare intorno ai nemici, caricano, ma caricano vincendo, tra virgolette, di numero, perché incutono timore nell'avversario, la componente paura fa sì che le linee nemiche si sfaldino e loro passano, ma non sono una cavalleria da battaglia, sono una cavalleria da schermaglia, diciamo, no? E questa è la prima cosa stupida, che non c'entra niente nella battaglia, però vi ve l'ho spiegato, serve solamente a togliere dallo schermo quei personaggi che erano difficili da fare, da gestire, da tenere sullo schermo per quanto riguarda i costi economici della battaglia, perché tutta la CG andava spesa a stecca sui draghi che facevano i combattimenti aerei e la Top Gun. E questo è il primo peccato, diciamo, dell'organizzazione. Sì, scusate, stavo sbadigliando. Il secondo peccato sono le trincee. E praticamente questi due professori, e questo due professori, quello di storia, quello di politiche internazionali, e questo veterano, ripeto, due della stessa intervista, un altro che parlava, è stato riportato il suo articolo del suo blog, senza conoscersi a migliaia di chilometri di distanza, dicevano la stessa cosa, nel senso che io non scavo la trincea davanti al muro di casa, cioè la trincea la sposti più avanti, perché la trincea che cosa serve? Serve a coprire le retrovie, e le retrovie che cosa sono? Nominalmente, ufficialmente, le catapulte che dovrebbero lanciare, o in questo caso i trabucchi, le catapulte eccetera, che dovrebbero lanciare in linea teorica sassi, oggetti comunque fiammeggianti dati alle fiamme, perché sono la debolezza dei non morti. E loro hanno fatto le trincee davanti alle mura, e che cosa hai guadagnato? Hai guadagnato 2 metri. E insomma spiegavano come funzionano le trincee in questo tipo di battaglia. Le trincee vanno leggermente più avanti con la fanteria a proteggere appunto le retrovie, e le retrovie sono gli arcieri e le catapulte, le baliste eccetera. In questo caso non c'erano soltanto loro che difendevano gli immacolati, che difendevano il niente, perché l'unica cosa che hanno fatto è stato coprire quelli che ripiegavano e scappavano, e non ha senso, cioè non è logico. Poi, tornando al discorso dei Dothraki, hanno detto tutti e 3 concordi su questo punto: se tu fai una battaglia di attrito, di resistenza, e tu sei la parte in difesa, tu non attacchi, tu difendi, cioè tu hai il vantaggio di avere la fortificazione, tu rimani indietro e tenti di decimare il nemico, di rallentarlo. È pur vero che qui è una battaglia soprannaturale con entità che non provano paura, non provano fatica, non provano fame, che però, diciamo, a corrente alternata hanno anche una coscienza collettiva quando gli sceneggiatori se lo ricordano, quando non devono fare qualche scena abbaiante da cani maledetti, si ricordano che hanno una coscienza collettiva, come ce l'avevano nella puntata 5x08, con un'altra battaglia, no? Di cui parleremo dopo, la puntata 5x08, perché dà delle nozioni che loro hanno dimenticato, ovviamente. E poi, oltre a questo discorso, parlavano del famoso discorso dei draghi e delle cripte. Cioè, dei draghi dicevano, è il piano migliore mandare 2 draghi a combattere il re della notte col drago? E la risposta di tutti e 3 è stata sì. Perché? Perché è l'unico nemico contro cui non puoi fare niente, perché dovresti avere una contraerea. E la contraerea in teoria non c'è, perché l'unica alternativa era la famosa balista creata dal maestro di approdo del re, che non c'è più perché è bruciata. E quindi mandi le uniche 2 unità aeree a combattere l'unica unità aerea che tu non puoi contrastare in nessun altro modo. Ha senso, ok? Quindi quella è l'unica cosa che potrebbe avere logica. Non ha logica che i draghi, diciamo che non essendo stati ingaggiati in battaglia per tutto il tempo, perché per motivi sempre di trama, da cani maledetti, il re della notte è sparito, non si sa dove è andato, non si sa che ha fatto, loro in quel frangente non è che hanno aiutato a decimare le truppe, a limitare le truppe nemiche. Loro hanno girato random sopra le nuvole per mezza puntata per fare queste inquadrature sceniche, perché ragazzi, ai fini di trama sono inquadrature sceniche che non servono a niente. Hanno fatto ste cose e in pratica la mossa tattica andava bene, però anche qui non è concisa l'intelligenza tattica con le scene fighe da commerciali, da serie televisiva, ok? Tra l'altro questa puntata è la puntata di battaglia più bassa a livello di recensioni della storia di IMDb per quanto riguarda il Trono di Spade, ed è macellata proprio dalla critica che l'ha massacrati sotto ogni aspetto. Dei draghi abbiamo detto questo, ci sono i due aspetti, quello delle cripte che non ha senso, noi lo diciamo da puntata 2, ma è normale che questi mettano le cripte dove ci sono 30 generazioni di non morti, di morti che possono essere rialzati dal nemico che alza i morti, tramutandoli in non morti, metterli nelle cripte? Quello è assurdo. E era molto più logico metterli in qualsiasi altro posto, anche mandarli via e usare Winterfell come ultimo bastione. In caso fosse caduto, comunque avresti dato 24 ore, 48 ore di vita in più agli altri che scappavano a sud. Non ha nessun senso, tranne la scena eroica strappalacrime di Tyrion e Sansa che si guardano negli occhi con gli occhietti a cuoricino, si danno la manina e vanno a difendere gli inutili con Varys che li capeggia. Cioè, capite che è una roba veramente tremenda, tremenda. L'altra cosa che hanno sottolineato è Bran. È una cosa che dissi anch'io nella puntata scorsa, cioè Bran non ha fatto niente. Bran nella puntata è utile come uno scolapasta senza buchi, non fa niente. Cioè è l'intero... E poi qui c'è una cosa che avevo già detto, ma il piano fantastico, anche ufficialmente un professore di storia medievale l'ha detto, no? Bran in teoria è il corvo a tre occhi, ha una sorta di onniscienza limitata e in teoria lui è il bersaglio del re della notte, ok? Se io ho un bersaglio, no? Questo diversivo che posso utilizzare, probabilmente per proteggere la gente a Winterfell, ok? Perché lo scopo è quello di uccidere il re della notte attirandolo da Bran. Io Bran non lo metto dentro Winterfell perché, e qui veramente è logica da 8 anni in su, se io ho una pentola piena d'oro, ok? E non voglio farmela rubare, non dico, adesso metto la pentola piena d'oro dentro la macchina, così rubano la macchina ma non rubano la pentola. No, sei un coglione, perché rubano la macchina con la pentola dentro. Cioè, non c'ha senso. Cioè, se tu vuoi attirare il re della notte da Bran, metti Bran in un punto lontano e visibile, perché tu sposti la battaglia da un'altra parte. Cioè, tu non metti la persona che viene attirata dal re, scusatemi, la persona che il re desidera uccidere, la metti nel punto che tu vuoi difendere. Qui così lui convoglia con tutte le truppe su quel punto, ti massacra la gente come è successo e poi va da Bran. Capite? Cioè capite l'idiozia di questa cosa? Cioè è una roba. E poi Bran partecipa a tutta la battaglia dicendo, come padre Maronno, tu sei un bravo uomo, facendo morire Tyrion in maniera totalmente senza senso. E anche qui è stato detto, io l'avevo detto anche in tono goliardico, loro hanno ripreso questa cosa, nel senso, se non sbaglio, solo il professore di storia medievale, non dico i nomi perché non c'ho l'articolo aperto davanti, però metterò i link. E lui dice, giustamente, in un combattimento in cui sei condannato, in cui il tuo scopo, no? Qual è lo scopo di Tyrion? Lo scopo di Tyrion è garantire il più a lungo possibile la sopravvivenza di Bran, ok? Loro, per motivi scenici, no? Si sono fermati perché il re della notte deve trarre questa soddisfazione di uccidere di persona Bran, che già di suo fa ridere perché che il re della notte, che è un'entità soprannaturale, debba trarre soddisfazione, che poi, no? Ragazzi, vi ricordate la puntata in cui i guardiani della notte incontrano il primo non morto e il comandante, eccetera, dicevano, ah no, e per tutta la serie poi hanno detto che, ah, ci ha visto perché ci hanno gli occhi, sono collegati, eccetera. Se il re della notte controlla tutti i non morti e un non morto uccide Bran, lui di riflesso ha ucciso Bran perché li ha controllati lui. Non sono non morti riportati in vita dotati di volontà propria, sono estensioni della volontà del re della notte. Quindi che quella scena di pathos che lui cammina e va a uccidere Bran, non lo uccide, è fan service, è la scena che serve a Arya per fare Assassin's Creed. Cioè non c'ha senso. E anche qui non coincidono le logiche, i bisogni televisivi con reale svolgimento di una trama coerente, e sicuramente Martin farà una roba completamente diversa, farà una roba totalmente diversa, come giusto che sia. E appunto, fra queste scene loro facevano vedere la puntata 5x08 del Trono di Spade, in cui c'era la battaglia dove si vedono i caduti, appena caduti, rialzati dal Re della Notte, e anche gente deceduta tempo addietro. E quindi il dubbio che il Re della Notte possa rialzare persone morte in qualsiasi epoca viene sciolto 3 serie prima. E tu metti la gente nelle cripte perché? Perché devi fare la scena strappalacrime? Perché devi fare la scena col pathos di Sansa e Tyrion? Boh, non c'ha senso, perché veramente non è comprensibile, non è leggibile. Detto questo, abbiamo finito con le perplessità, proseguiamo con le idee, le speculazioni e le paure per il futuro. Ok, io l'ho scritta e mi sono fatto un appuntino in ordine sparso. E c'ho il fogliettino qui. Sono delle perplessità dovute alla pessima scrittura della serie, no? La prima. Euron Greyjoy, che cosa fa adesso? Ok, è una battaglia terrestre. Lui ha una flotta, non c'è niente da conquistare via mare. Farà la battaglia con Lyara, che Lyara c'ha tipo 2 navi e lui ce n'ha 200. Cioè, sta cosa io non so come la gestiranno, perché comunque non so dove vogliono andare a parare, perché evidentemente adesso faranno il rush finale con tutte le truppe Stark, Targaryen, Greyjoy all'attacco di approdo del re. Boh. Cioè, comunque, la storia di Euron Greyjoy non è... A parte che lui è un personaggio massacrato, perché io ho chiesto a persone che sono in pari con i libri, mi hanno detto che la storia... Anche qui, il misticismo, il mistero, il dio degli abissi, il dio sommerso, eccetera, eccetera, tutta roba che è andata a puttane. Come è andata a puttane il dio della luce, come è andata a puttane Stannis, come è andata a puttane il re della notte, la profezia di Lightbringer, eccetera, le profezie di Bloodraven, bla bla bla, va tutta a puttane. E sinceramente io, il fatto che Euron Greyjoy, un personaggio che abbiamo visto 10 minuti la passata stagione e 10 minuti in questa serie, che dice delle cose super scontate, super cringe, mamma mia, cioè... Che poi l'hanno trasformato, perché inizialmente era, ce l'aveva questo aspetto del fatto del dio degli abissi, eccetera, lui che supera la prova, cioè era più misterioso, più oscuro, più dark, più piratesco, eccetera. Adesso, dai ragazzi, adesso c'ha pure la barba tipo Lemmy dei Motorhead, rasato con gli orecchini, cioè sembra veramente un rocker anni 80, sembra... Jack Sparrow dopo che si è disintossicato. È un personaggio brutto. Il fatto che lui sia il main villain insieme a Cersei di sta storia, a me sinceramente dà fastidio, perché non ha carisma, non mi frega niente di questo Euron Greyjoy, perché la faida per le Isole di Ferro con Lyara, con Tyrion, eccetera, l'omicidio del padre di Tyrion, cioè, quella era una sottotrama interessante che rientra, diciamo, nel canone narrativo di Martin. Questa è una forzatura, e ti mettono un personaggio che caratterialmente non ha detto niente, non ha fatto niente. Il dialogo sulla nave con Lyara è un dialogo perfettamente inutile. Ha solo detto quella cosa: io andrò a letto con la regina, vado alla regina, io metterò un bambino nella tua pancia. Dai, veramente ragazzi, dai, è scritto male e non è interessante, è un personaggio di merda. Detto questo, altra, ho citato la profezia, voi vi ricordate che Melisandre aveva detto a Varys che prima che finirà questa storia io e te saremo morti? E Varys è vivo, come muore Varys, quindi Varys muore, perché, vabbè che, ripeto, le profezie in questa serie non valgono niente, però Melisandre la profezia l'ha avverata da sola perché si è ammazzata. Varys, boh, non lo so, io non so neanche che peso dare a queste cose, perché fondamentalmente... Cioè, uno se vede una roba che ha una coerenza narrativa, ti fidi di quello che ti ha detto l'autore, però siccome qui gli autori sono, ripeto, dei primati che fumano e scrivono, l'immagine delle scimmiette sulle macchine da scrivere, no? Uguale, quelli sono loro, non mi fido di dove vogliono andare a parare, no? E vabbè, altra sottotrama di cui mi preoccupo, Cersei, Brienne e Jaime, perché questo amore... casto puro e platonico per il momento. Per il momento non si sa mai, perché è troppo tempo che non si vedono Cooley e Sin. Questa intesa spirituale fra Brienne e Jaime, se si concretizzerà, comunque porterà alla morte di uno dei due o entrambi, e Cersei sarà coinvolta, perché comunque Cersei come la vuoi coinvolgere con Tyrion? No, perché Tyrion secondo me ci avrà la sottotrama con Bronn, perché è vero che Bronn ha avuto anche a che fare con Jaime, però il legame, diciamo, materialistico, emotivo e caratteriale l'ha creato con Tyrion. Quindi secondo me Bronn avrà a che fare con Tyrion, Jaime e Brienne con Cersei, Varys non si sa, Lyanna Greyjoy in teoria dovrà combattere con lo zio Euron, non si è capito, perché lei veramente, ragazzi, lo dicono, lei c'ha 3 navi, lui ce n'ha 200, ma che cazzo deve fare? Cioè, è impossibile. Ma io riprendo l'Isola di Ferro, che lui non c'è. Sì, ma lui ce n'ha 200, ritorna e te le leva. Cioè, che trama è? Che trama è? No, io veramente... Poi, Gendry, non lo so, secondo me potrebbe sopravvivere, cioè... Parlavo con i miei amici, appunto, che pensate in ottica futura, magari Gendry ha messo incinta Arya e Arya porta in grembo il figlio della dinastia Stark, del uno dei legittimi eredi al trono, perché lui è Gendry Baratheon, quindi Arya in teoria potrebbe essere incinta dell'erede al trono, sebbene l'erede al trono siano in linea diretta Jon Snow e Daenerys, perché c'ha il drago. Però vabbè, in teoria è Jon Snow, però non so se è più valido il claim di Jon Snow in quanto figlio Targaryen o è più valido quello di Gendry in quanto figlio dell'ultimo vero re Robert Baratheon, no? Non lo so. Però vabbè, sarebbe figa. Io, questa storia, secondo me, ci voglio battere sul chiodo del fatto che faranno finire la serie col time shift del figlio di Gendry e Arya. Non lo so. Ho questa impressione. Bran è Bloodraven, il corvo a tre occhi in italiano. Che fa Bran se tutto il suo ruolo era quello di combattere, contrastare e informare gli altri del Re della Notte? Premesso che abbiamo dimenticato il popolo della foresta, abbiamo dimenticato tutte le profezie, tutto quello è stato gettato nel cesso. Che ruolo ha Bran? A parte dire "Dio, non sei un bravo uomo", che fa? Fa padre Maronno fino alla fine, stalker la gente fino alla fine della serie? Cioè, Bran in teoria l'ha finito il suo ruolo, eh. Non che abbia fatto un cazzo in tutta la serie, cioè non ha fatto niente Bran, a parte essere trascinato, diventare amorfo apatico, dire 3 frasi veramente banalissime, cappottare gli occhi, riprendersi dal trip tornando da San Patrignano, e non ha fatto più niente Bran. Cioè, veramente, Bran è un personaggio che ha esaurito la trama. Cioè, Bran, se domani... Non si vedesse più, si vedesse solo in una scena post credit con lui che annuisce, sarebbe uguale. L'unica cosa che io temo è che Bran dica una roba del genere: ah, il re della... ci deve sempre essere un figlio, un azorai e un re della notte, quindi qualcuno deve prendere il re della notte, prendono il coltello d'ossidiana, lo impiantano in petto a Jon Snow, perché altrimenti c'è il contrasto fra Jon Snow e Daenerys per il trono. Jon Snow lo impalettano col vetro di drago, diventa lui il re della notte, lo sbattono al nord e per i prossimi 8000 anni aspettiamo che scenda Jon Snow con i nuovi non morti. Io ho paura di questa cosa, perché sembra, no? La classica... Sembra il quello che copia il compitino, cioè Martin non farebbe mai e poi mai lieto fine, e questa sembra la classica mossa di chi non capisce un cazzo, vuole copiare il compitino a quello bravo, dice ok, Martin non farebbe lieto fine, facciamo una cosa brutta. La cosa brutta è che John, che in teoria nella serie è stato pugnalato e riverso al suolo, fanno rimorire John, questa volta Melisandre è crepata, ecco perché muore Melisandre, perché Melisandre ha resuscitato John, questa volta Melisandre è morta, e te l'hanno fatto vedere che Melisandre è morta, non è una scena a caso, Melisandre è morta, nessuno rialza John, lo pugnalano al cuore e fanno diventare lui il nuovo re della notte, perché ci deve essere sempre la luce e il buio, la luce, la vita e la morte. Io ho paura che facciano sta cacata, è meno probabile che facciano Daenerys. Non lo so perché, Daenerys dalla prima puntata, a parte che, ripeto, che Daenerys mi sia diventata la casalinga innamorata quando era la colei che infrange le catene, colei che ha vinto i pregiudizi dei Dothraki e una donna che guida tutto il Khalasar, cioè dal tributio del femminismo alla casalinga innamorata, sinceramente mi è calata pesantemente, però a livello politico Daenerys c'ha cervello, riformulo, aveva cervello quando era scritta da Martin, sarebbe più consono che lei andasse sul trono, d'accordo? Però a me sta storia non me la leva nessuno, sta paura che John lo facciano diventare il nuovo re della notte, lo impalettino, perché hanno fatto vedere quel rituale, poi chiaramente, secondo me, se ne sono anche dimenticati gli sceneggiatori, perché hanno fatto delle cose in completo contrasto con tutto quello che hanno visto nelle 7 serie precedenti, però questa paura latente a me rimane, tipo, ci deve essere la luce, l'oscurità, che è una roba veramente che mi fa male al cervello, però ho questa paura. Poi, parlando della faida Cersei-Brienne Jaime, ho dimenticato un'altra variabile, anzi, cioè che Arya Stark, secondo me, la secca Cersei, per il semplice motivo che Arya, cioè il fanservice più totale, alcuni mi hanno detto, beh no, gli hanno fatto seccare della notte, senza alcun motivo, con un'arma che non avrebbe dovuto ucciderlo, bene, e non gli fanno ammazzare Cersei, perché Cersei probabilmente l'ammazzerà o Jaime o Brienne, chi sopravvive dei due. Però, Cersei in persona ammazza Jaime e Brienne? No, cioè, uno perché sono guerrieri e Cersei non conta una minchia. È un incastro difficile, perché in teoria Euron combatte con Lyara, come cazzo si chiama, la sorella di Theon. La montagna, che è la guardia del corpo di Cersei, cioè il Clegane Bowl, cioè la Royal Rumble col Clegane, l'unico sopravvissuto della famiglia ci sarà, è ovvio, cioè è scontato che Sandor combatterà contro la montagna e vincerà e poi morirà. Probabilmente morirà davanti ad Arya, perché Arya l'ha lasciata crepare già una volta e vedrà il mastino crepare definitivamente. E bisogna capire a che punto si inserirà Arya, se si inserirà, perché anche Arya a livello di trama, il motore, diciamo, della trama di Arya era la vendetta, cioè lei, no, che era, si è finta nessuno per con Jaqen per imparare le arti del combattimento, non ha mai rinunciato alla sua identità, ha cercato ossessivamente la sua vendetta e rimane Cersei. Quindi, secondo me, Arya sarà coinvolta. Bisogna capire come, perché comunque si incastra con la storia di Brienne e Jaime. E sui due Clegane abbiamo detto quello, quindi sinceramente, a livello di trame, è già scritto quello che succederà nella serie. Poi, io ho visto un teaser alla fine della 8x03 e io già lì mi sono infastidito, perché... Ah, c'era Daenerys che, e una cosa me l'ha fatto notare il mio amico Rob, è 40 anni d'inverno, fanno le inquadrature, però io lì sono titubante perché nei trailer fanno, grazie al montaggio, prendono delle scene anche separate cronologicamente e geograficamente, le mettono insieme e tu magari capisci una cosa che non succede mai nella serie, però 40 anni d'inverno fanno vedere la scena con Daenerys che parla, la primavera. Il sole, la luce, la primavera, un quarto d'ora dopo che è morto il re della notte, e tu giustamente guardi e fai, sì, vabbè, però meno ovvio, meno scontato, meno banale, meno cliché, però loro chiaramente, no, loro devono tirar fuori tutto il fondo del barile, tutta la rumenta sul fondo del barile, la devono tirare in faccia tipo le scimmie che si lanciano le feci, e quindi... anche, ripeto, l'aspetto... Ecco, stavo dimenticando, Daenerys dice, abbiamo vinto la battaglia più importante, adesso vinceremo l'ultima battaglia, perché la battaglia tra vivi e morti, no? La sopravvivenza dell'umanità, no? Deve essere meno importante di Cersei Lannister, main villain della serie, per fanservice, perché guardatevi, io adesso non vedo l'ora che esca la nuova trilogia, i nuovi libri di Martin, per farmi grasse risate, perché Cersei, secondo me, ricordate la storia dell'altopassero, dei Tyrell, eccetera, dei buffi con la banca di ferro, i Lannister sono una famiglia allo sfascio nei libri, no? Mentre qua Cersei è ancora regina, non si capisce per quale motivo, voglio vedere dove andranno a parare. Detto questo, abbiamo esaurito le altre speculazioni. Se avete qualche teoria voi, qualche speculazione voi, fatemela sapere. Vi metto il link dell'articolo e vediamo cosa si inventeranno questi sceneggiatori microcefali. Cosa si sono già inventati, perché la serie è stata già scritta, girata e finita. Vediamo come andrà a finire e vediamo quanto ci dovremo incazzare. Io Per chi non li conoscesse, consiglio di leggere appunto gli articoli e soprattutto andarsi a vedere Il Trono del Muori, che fa molto ridere. Almeno ironizziamo sulla pochezza di questa serie che è stata smembrata e stuprata peggio del povero Tion. E quindi niente, buon proseguimento a tutti e buona visione, speriamo.